A me piace sognare. Di quei sogni che quando ti svegli pensi di esserci ancora dentro. Al punto che la cosa strana non era il sogno, ma è ritrovarti nel tuo letto in pigiama con i capelli arruffati. Sì, mi piace pensare che il sogno sia l'altra vita possibile. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:05 minuti, questa era di 24. Sono Matteo Caccia e sono qui. Sono al mare, altre volte invece in riva a un lago, ed entro in acqua. Non nuoto, cammino poggiando i piedi sul fondo. L'acqua è scura, compatta, assolutamente impenetrabile allo sguardo. Mi arrivo ormai al petto. Ci sono altri bagnanti, tutti impegnati a camminare sul fondo senza nuotare. Improvvisamente uno annaspa, grida e sparisce sott'acqua. Poi un altro ancora. Percorso da brividi di terrore, capisco che uno squalo invisibile sta facendo strage di noi. Mi volto verso la riva e cerco di correre in salvo, ma l'acqua rallenta i miei passi. Si incolla alle gambe e alle braccia, con le quali cerco di aiutarmi, remigando. L'ultimo dei bagnanti scompare senza un grido. Si fa silenzio. E so che lui sta arrivando. Aggrovigliato, quasi accartocciato dal terrore, mi sveglio. Questo pezzo è il pezzo di un racconto scritto da Raul Montanari, che faceva parte di una raccolta di racconti uscita per Rizzoli un bel po' di anni fa, credo una decina d'anni fa. La raccolta si chiamava Un bacio al mondo, non so se è ancora edito, però era un bellissimo libro. E c'è un racconto di questi racconti, si chiama I 24 incubi, e sono proprio questi incubi ricorrenti che il protagonista fa nel corso della sua vita. Ho letto questa roba qui proprio perché io questa notte ho avuto il mio, più che incubo direi, il mio sogno ricorrente. È una cosa che capita più o meno a tutti, me ne sono accorto proprio perché prima sul profilo Facebook del programma, appena ho raccontato di questa cosa, sono venuti fuori tutti i sogni ricorrenti che fanno le persone, e ce n'è di svariati, e ci sarebbe veramente materiale per lavorare. 800 24 00 24, 349 238 6666. Magari non l'avete fatto questa notte, magari l'avete fatto ieri notte, oppure una settimana fa, o un mese fa, o comunque qualsiasi momento dell'anno lo abbiate fatto, anche voi probabilmente avete un sogno ricorrente. Se avete voglia di raccontarmelo, il numero è 800 24 00 24, oppure 349 238 6666. Vi faccio un esempio. Giuliano sul profilo Facebook è sempre quello, Matteo Caccia, io sono qua, mi scrive, io sono qui, non sono qua. Magari si trova lo stesso, però io sono qui. Giuliano mi scrive: il mio sogno ricorrente. Tengo un comizio in inglese. Sono in maniche di cravatta, in maniche di camicia, con una cravatta, in uno stadio o in un'arena. E parlo. Parlo a braccio, mi infervoro, seguendo un appassionato ragionamento. La folla è con me e dentro di me. Nel sogno penso: cavolo, sto facendo un comizio in inglese. E penso in inglese, senza tradurlo dall'italiano, come succede quando stai là per qualche giorno. Il dramma è che quando mi sveglio non riesco minimamente a ricordarmi di cosa cavolo stessi comiziando. E si ripete tutte le volte. 800 24 00 24, 349 238 6666. Fermatevi un secondo da quello che state facendo e provate a pensarci. Magari non serve, perché se è ricorrente vuol dire che proprio perché si ripete rimane bello impresso nella memoria. Magari raccontandolo, no, viene fuori. Di solito da bambini, quando uno racconta i sogni, ci sono gli altri che dicono: sì, ma che palle, ma ti pare che possa essere interessato un sogno? E secondo me in realtà ha un aspetto molto interessante, soprattutto per quello che riguarda le proiezioni sul nostro passato, sul nostro futuro. 800 24 00 24, 349 238 6666. Paola: Dio suona alla mia porta, apro e lui assomiglia a Corto Maltese, mi sorride, mi invita a bere un caffè, l'ho sognato anche stanotte. Filippo: il mio sogno ricorrente è l'apoteosi del nonsense. Vabbè, fino a qui, sai, è un sogno. Esco di casa per andare non si sa dove, quando, appena chiusa la porta alle mie spalle, mi rendo conto di essere senza scarpe. Sono scalzo. A quel punto mi prende una vergogna che si tramuta presto in angoscia, quando mi rendo conto che per qualche strano motivo non posso più tornare a casa a metterle. Ma non perché non abbia le chiavi o perché non ci sia qualcuno a casa che mi apra quella maledetta porta, ma perché qualcosa di più grande, più forte di me, mi impedisce di tornare indietro una volta accorto della nudità dei miei piedi. Pippo: 800 24 00 24, 349 238 6666. È arrivato anche un Un altro racconto, è un racconto però più lungo di un sogno ricorrente, me l'ha scritto Luca e lo leggo dopo, proprio perché preferirei cominciare dal mio di sogno. La cosa incredibile è che quando mi sveglio me lo ricordo perfettamente, che sia mattina presto, che sia al cuore della notte o che sia al pomeriggio. Mi è capitato di sognare anche un pomeriggio durante un riposino estivo quotidiano. Non è propriamente un incubo, è proprio una cosa che ha il suo aspetto angosciante, però ormai lo conosco talmente bene che lo conosco financo nei dettagli. 80024 0024, e ho detto anche financo, credo fosse dal 1982, da quando ho imparato questa parola, che non la usavo. 80024 0024 per il vostro sogno ricorrente. Il mio invece è questo qui. In questo periodo sogno molto più spesso del solito. Credo che sia dovuto al cambiamento. Ho letto da qualche parte che quando le nostre giornate sono molto simili una all'altra, la parte del cervello destinata all'attività onirica lavora meno del solito. E quindi i sogni sono più labili, sono meno resistenti alla memoria. Che poi a dirla tutta sulla produzione dei sogni si sa molto poco. E ancora non si è capito quale parte del cervello venga coinvolta in maniera attiva durante il sogno. A me comunque piace sognare. Mi piace sognare quei sogni che quando ti svegli pensi di esserci ancora dentro. Al punto che la cosa strana non era il sogno, è proprio ritrovarti la mattina nel tuo letto in pigiama con i capelli spettinati. Non so cos'è, è che mi piace pensare che il sogno sia l'altra vita possibile. Anche perché poi di fatto è così. Se si considera che l'aspettativa media di vita in Italia è di 82 anni, che si dorme tra le 6 e le 8 ore per notte, ho calcolato che ognuno di noi dorme circa 30 anni. Cioè, 50 anni li passiamo in stato di veglia e 30 anni della nostra vita nel sonno. È come se un giovane uomo aprisse gli occhi solo allo scoccare della mezzanotte del suo 30° compleanno. È chiaro che il sonno e quindi i sogni sono a tutti gli effetti l'altra parte della nostra vita. Da bambino avevo sogni ricorrenti, per i quali mi è anche capitato di sviluppare del sonnambulismo. Mia mamma mi ha raccontato di avermi trovato sveglio di notte mentre mi infilavo le scarpe da calcio con i tacchetti, bofonchiando qualcosa su una partita che stava iniziando e che dovevamo vincere a tutti i costi. Purtroppo da qualche anno a questa parte è un po' difficile parlare di sogni senza scadere nel ridicolo, e obiettivamente la colpa è un po' di quel signore con gli occhiali e il ciuffo che tutte le notti in televisione non fa altro che usare i sogni come fossero la lista della spesa. Dice frasi tipo: meglio una vita da sogno o il sogno di una vita? Oppure la più famosa, che poi è la più terribile: la vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio? Notte alta e sono sveglio. Con i sogni, quelli veri, insomma, sogna qualcosa, c'è qualche immagine che ricorda. Un sogno invece che ricorre nelle sue notti quando dorme, non quindi un sogno inteso come desiderio. Eppure, nonostante Gigi Marzullo, io continuo ad essere molto attratto dalle storie che vivo nei miei sogni. Mi è capitato di sognare qualsiasi cosa, di volare, di cadere, di vincere, di perdere, di essere felice, di essere triste, di avere tre braccia oppure di non avere le gambe. Non ho mai cercato di interpretarli, un po' perché non mi fido e un po' perché ho paura, sinceramente. Però ho scoperto che ci sono una marea di siti in cui si trovano risposte a qualsiasi sogno. Ce n'è uno in particolare in cui i sogni sono addirittura elencati in ordine alfabetico. Quindi, se nel sogno c'era ad esempio un orologio, si piglia, si va alla O, si trova. Orologio funzionante, un viaggio vantaggioso potrebbe essere imminente. Orologio fermo, si sta verificando un arresto nelle proprie attività. Altro caso, se nel sogno c'è un esame, vai alla E. Esame, grande sicurezza ma anche capacità di rassicurare. Probabilità di dover affrontare una prova dolorosa. Oppure ansia, paura di confronto e di concorrenza. C'è un serpente, rettile. È probabile avere difficoltà sessuali di prospettiva. C'è un problema collegato ai rapporti affettivi che avrà bisogno di molta pazienza per essere risolto. Ieri notte però ho sognato molto forte. Era un sogno così vivido che mi ha quasi svegliato. E ora ho bisogno di raccontarvelo. Sto nuotando, sono al mare, però potrebbe essere un lago. ma preferisco pensare che sia il mare. L'acqua è talmente blu che fa quasi paura. Io però di solito non ho paura dell'acqua, nel senso che se mi faccio una doccia, ad esempio, l'acqua non mi fa paura, ma anche il mare non mi fa paura, è proprio stare nell'acqua che mi spaventa. Non so, è come se avessi paura di annegare, cioè come se il mio corpo a un certo punto fosse molto stanco e non riuscisse più a coordinarsi per stare a galla, e quindi comincia ad affondare. E quindi sono sott'acqua e per un po' cerco di trattenere il fiato, poi però il fiato finisce e allora butto fuori l'aria. E in quel momento lì capisco che quella è l'ultima aria che io avevo. E allora guardo su e mi accorgo che la superficie ormai è già lontana. E se anche nuotassi più veloce che posso, col poco fiato che mi è rimasto non ce la posso fare. Non riuscirei mai a tornare su. E allora provo a respirare. Provo a respirare perché se ci riescono i pesci a respirare nell'acqua, vuol dire che anche io ce la posso fare, no? Cioè, vuol dire che un po' di ossigeno nell'acqua c'è. E poi anche noi vivevamo nell'acqua milioni di anni fa, è solo questione di abituarsi. Però intanto il tempo sta passando e o mi muovo a prendere la decisione di provare oppure non mi restano che pochi secondi di vita. E quindi ci provo. Apro la bocca, faccio entrare un po' d'acqua, ma niente. Mi fa solo tossire e mi fa sprecare l'ultimo ossigeno che ancora avevo nei polmoni. Mi accorgo che sto perdendo conoscenza, che ormai non serve più dimenarsi. Ormai conviene stare fermi e lasciarsi andare. E poi invece, a un certo punto, apro gli occhi e vedo un pesce che mi guarda. Per la prima volta in vita mia io mi trovo a invidiare quel pesce che non ha mai detto niente in vita sua, che non ha mai fatto nulla per cambiare il mondo, che non sa che cosa sia l'ambizione, l'odio, l'amore, perché, chissà se i pesci si innamorano. Insomma, lui non ha mai fatto nient'altro che mangiare pesci più piccoli di lui. Sta vivendo la sua vita senza che nessuno se ne accorga. E probabilmente morirà senza che nessuno pianga la sua morte. Io invece no. Invece la mia vita la sto vivendo. E ci saranno un sacco di persone che sentiranno la mia mancanza se muoio. Però lui, il pesce, è in grado di respirare sott'acqua e io invece no. E questa adesso è la cosa più importante. Basta, ora anche il mio cervello non ha più aria, nemmeno lui. Anche il suo ossigeno ormai è finito. Allora chiudo gli occhi e penso a quando ero nella pancia di mia mamma. Anche lì ero sott'acqua. Anche lì non c'era aria da respirare. Però c'era il cordone ombelicale, no? L'ossigeno me lo prendevo dall'aria che respirava mia madre. Intanto ho toccato il fondo. Sono arrivato. Sento che la sabbia mi accoglie come un materasso, il più comodo dei materassi. Allora mi dico che in fondo sono fortunato, che almeno sto morendo in un posto comodo. Penso che comunque alla fine è meglio morire in un posto comodo anziché no. Il fatto però è che io non voglio stare qui. O meglio, io non voglio proprio morire. Cioè, non mi sembra il momento. Soprattutto poi non così, non da solo, non in fondo al mare. Allora provo ad aprire gli occhi. Mi rendo conto che ancora un po' di ossigeno che mi gira nei polmoni io ce l'ho. Provo a mettermi seduto. Alzo la testa. Vedo i raggi del sole che filtrano nell'acqua e mi accorgo che la superficie non è poi così lontana, che ero io che la vedevo lontana, che c'era quasi un piacere in quel lasciarmi cadere verso il fondo. Provo a darmi una spinta con le gambe e in un attimo mi trovo di nuovo sospeso in mezzo al blu. Mi dico che questa è la volta buona per provare a fare finalmente qualcosa che sembra impossibile. E non so come, ma ce la faccio. Sono fuori, faccio un respiro che mi fanno male i polmoni da quanta aria butto dentro. E poi urlo. Urlo come fanno i bambini quando escono dalla pancia della mamma. E allora mi dico che forse è per quello che urlano. Perché hanno avuto la peggiore delle paure. Hanno avuto paura di morire. Il mio sogno ricorrente è di baciare una mia carissima amica che non vedo da anni. Ogni volta il sogno è sempre più spinto. Chi lo dice l'amorosa? Fin da quando ero bambino sogno di tanto in tanto di annegare nella roggia dove da giovane mio nonno mi ha raccontato di essere caduto dentro da ubriaco. Mi sveglio sempre con il fiato corto. Cado da diverse situazioni a pochi centimetri dal suolo. Vorrei restare nel sogno per curiosità, ma mi sveglio per la paura dei possibili effetti. Mi ricordo solo che sono nudo in mezzo a gente vestita, ogni volta, e ogni volta non ricordo altro, Andrea. Il mio sogno ricorrente è che mi devo ancora diplomare. Vado all'esame con le pantofole perché ho dimenticato le scarpe. Angoscia totale, Alex D'Ascoli. Strovate le scarpe, deve essere proprio che... nudi, senza scarpe, nudi. Sogno di diventare microscopico, di dimensioni molecolari, e vedo gli atomi e le molecole. Paolo D'Asti. Sono nella mia camera da letto, nella mia casa, che dà sulla spiaggia. Guardo fuori e la mia gatta si sta leccando su una sedia in mezzo alle onde. Il sole è accecante, poi mi sveglio. Elena. 800240024 oppure 349-238-6666. Il vostro sogno ricorrente, quello che avete fatto magari stanotte o che avete fatto anche una settimana fa, però quello che è il vostro sogno ricorrente. Ringrazio anche il genio che, visto che prima ho detto io sono qui, io sono qua, mi ha scritto io sono qua. 800240024 349-238-6666. Prima però è arrivato un altro messaggio. Facciamo in tempo, sì, prima della borsa facciamo in tempo. È arrivato un altro messaggio di un sogno che fa un ascoltatore che si chiama Luca. Gli ho chiesto se potevo leggerlo, lui non mi ha risposto, probabilmente perché doveva fare altro, e quindi speriamo non si arrabbi, però il sogno è molto bello, quindi mi va di leggerlo. Paulino, mi dai una base che non sia questa, che sia un po' da sogno, insomma, non da incubo. Bravo. Ragazzi, ce ne ha sempre una, tra lui e il Bonini c'hanno sempre la base giusta. Luca. Io non sono del tutto sicuro che mi piaccia sognare. Se farmi visita però è il mio sogno ricorrente, allora sì che sognare è un'esperienza meravigliosa. Non è nulla di fantasmagorico, è solo una corsa in motom con mio nonno. Che detta così potrebbe sembrare cosa da poco, ma solo perché voi non avete conosciuto mio nonno, perché forse non avete nemmeno idea di cosa sia un motom. E la sensazione di potersi liberare nell'aria contro ogni regola familiare ed inconsci ma partecipi della sensazione della libertà. Dunque, i miei genitori non avrebbero voluto che andassi in moto con nessuno, nemmeno con mio nonno, ma lui era uno che la vita se l'era scritta da solo, in barba ad ogni regola, con un motto semplice: se non nuoce a me o agli altri, lo faccio. E così, senza pensarci su, mi faceva fare le cose più disparate contro ogni monito dei miei genitori. Cose da grandi, si intende, quelle cose che i bambini come me sognavano di fare, giusto per dimostrare a se stessi e ai parenti di essere grandi e forti. Ecco, una di queste era andare in moto. In vita non gliel'ho mai chiesto e non so nemmeno il perché. Nel sogno invece sì. Nel mio sogno ricorrente, mio nonno mi carica sul sedino posteriore e mi porta via dalle regole, con il vento sulla faccia. Ed io che nell'abbracciare quella sua giacca di velluto da caccia, con una guancia appoggiata alla sua schiena e l'altra al freddo del vento, vivo ancora oggi la mia e la sua libertà. Troppo spesso però i sogni proprio nel momento più bello finiscono e la veglia arriva a rovinare il finale. Per fortuna io, quel motom, ce l'ho ancora. Quella giacca anche, e ogni tanto, grazie ai sogni, ho anche una giornata speciale con una guancia fredda al vento e l'altra calda, appoggiata sulla schiena di mio nonno. Luca. Grazie Luca anche per non avermi dato l'autorizzazione a leggere, ma sicuramente non te la sarei presa, lo spero. Io non sapevo cosa fosse il motom. Io all'inizio credevo fosse un refuso, sarà la moto o la moto se è di Brescia e di Bergamo. E invece no, il motom è un... è tipo... certo, saperlo ma non saperlo spiegare è magnifico. È tipo un vecchio Moto Guzzi. Avanti, uno che ha la definizione corretta di motom, per piacere. 349-238-6666. Comunque è una vecchia moto, su questo non ci piove. E giuro che dopo la borsa vi dico esattamente che cos'è il motom. Io sono qui. Nella foto siamo in Oriente. Si capisce da due cose. Primo, gli occhi delle persone che ci sono. Secondo, anche se non ci fossero le scritte, quindi l'idioma non fosse evidente, sarebbe evidente perché ci sono dei palazzi altissimi con dei cartelloni iperilluminati. Quindi o si è a Times Square a New York, oppure si è in una piazza, credo, di Tokyo. Ci sono un sacco di persone che camminano nella parte bassa della foto. L'ora è credo appena prima del tramonto, perché la luce è proprio di taglio sulle facce delle persone dal basso. C'è una via con dei palazzi molto alti e di fronte, proprio che riempie tutta la foto, un edificio con delle colonne piene di pubblicità, tipici simboli giapponesi. Adesso mi espongo dicendo che è Giappone, poi non è Giappone e sarà terribile, già lo so. Un mega schermo della Panasonic e pubblicità. Massimo Boni, 41 anni, giugno 2009, immerso tra il caos di Tokyo e i giardini zen di Kyoto per prendermi in anticipo i miei 40 anni e come regalo al mio ritorno un cambio vita. Felice? Crisi? Non lo so, ho solo la consapevolezza di andare in una direzione nuova e tutta da scoprire. Io sono qui. E bravo, speriamo abbia trovato anche lui la sua direzione, quindi era Kyoto o Tokyo? Non sei capito? Tokyo, tutte e due. Tutte e due? Non può essere tutte e due. Lui è stato tra Tokyo. Vabbè, insomma, se qualcuno è stato a Kyoto o a Tokyo, ha voglia di dirmi dove siamo in questa foto, va sul sito della radio e sul profilo del programma www.radio24.it, alla pagina di Io sono qui. Abbiamo capito che cos'è il Motom, eh? Allora, addirittura mi scrivono: ti invidio perché sei giovane. Il Motom è la Ducati dei cinquantini. Truccato arrivava ai 140 all'ora. Ehi, boom! Grazie al telaio tubolare acciaio da 16. Ah, aveva il telaio tubolare d'acciaio del 16, attenzione. Probabilmente aveva un carburatore del 19. Non temeva confronti. Il Motom che ricordo io era rosso ed era un motorino a benzina con i comandi del manubrio. Il Motom è l'antesignano dei ciclomotori. A quattro tempi anni 50-60. Monocilindrico. Tre marce a manubrio. 60 km con un litro faceva. Faceva 60 km con un litro. Sì, è proprio la pagina, le due ruote adesso. Il delfino del Motom. E poi comunque il Motom è una marca, ok? E questo l'abbiamo capito. 800240024 oppure 349-238-6666 per i vostri sogni ricorrenti. Prima di andare a sentire Giacomo da Catania, c'è il sogno. Ce ne sono un paio di sogni interessanti. Uno è: il mio sogno è piangere, ma al mio funerale. E poi Federico che scrive: ho sognato un incidente in moto per qualche anno. A luglio ho fatto l'incidente e non lo sogno più. Vedi? Alla fine. Andiamo a Catania da Giacomo. Pronto, Giacomo? Sì, sono qua. Ciao. Ciao, come stai, Giacomo? Ma diciamo che ho un pochettino raffreddato dato il periodo autunnale. Purtroppo abbiamo avuto un nubifragio anche noi altri qua. Lo immagino. Però adesso spende il bel sole, quindi... Benissimo. Tutto va bene. Benissimo, guarda, mi conforta questa cosa, Giacomo. Ma scusami, a Catania mica ci avrete già il riscaldamento acceso, no? No, riscaldamento qua abbiamo 22-24 gradi, quindi quel riscaldamento io sto sudando. Scusami, Giacomo. La maglia della salute. Però sto sudando, cioè, perché c'è scirocco e quindi questo porterà forse un altro più. Ah, c'è scirocco, più, quindi non lo so. Ma lo scirocco, comunque... ma tra l'altro lo scirocco è il vento che fa impazzire a Catania, giusto? Sì, infatti noi siamo succubi di questo vento dell'Etna e dello scirocco. L'Etna è la nostra montagna, non lo è immagino. Un vulcano, è la nostra montagna. Giacomo, quanti anni hai, scusami, se posso? Io no, sono 66. 66. Il 16 settembre. Auguri. Senti, Giacomo, tu cosa fai? Lavori oppure sei in pensione? Ma sono in pensione, però sai, qualche lavoretto lo vado facendo. Ma tipo cosa, Giacomo? Mi attivo, perché uno se si fossilizza e se siamo finiti... Io voglio tutta la puntata solo Giacomo. Scusami, che tipo di lavoretti fai, Giacomo? Io il tecnico di televisore. Quindi elettronico. Ma ripari i televisori? Sì, certo. Ma pure questi qua al plasma giganti LCD? Allora, questi qua al plasma giganti LCD, ieri a un amico mio io l'ho fatto buttare perché ci vuole il plasma, era un NEC, e di listine costa 1500 euro. E uno dice... Anche buttalo e via. Va bene, Giacomo. Nove anni. Giacomo, senti, io purtroppo dobbiamo andare al dunque. Dico purtroppo. Dunque, praticamente io ricorrendo faccio dei bei sogni. Per me sono bei, perché sogno di volare. Volare come? Semplicemente come? Agitando le braccia. Certo, come un uccello. Ti metti al di sopra delle persone, delle antenne, pensi di non arrivarci e quindi fai un altro colpo di braccia di ali, e ce la fai. Elevi ancora. Giacomo, mi elevo. Ti elevi, perfetto. Giacomo, scusa, tu sei sposato? Sì. Ma quella fortunatissima donna che è tua moglie, come passa le giornate con te? Nel senso che tu le fai racconti come questi, immagino. No, ma io purtroppo a lei non glielo racconto perché dopo i 45 anni di matrimonio non è che c'è più quel dialogo di una volta, no? Come non c'è più dialogo, scusami? Nel senso che parlate poco. Io credo alle amicizie. Ma sì, Giacomo, ok, quello lo immagino, però torniamo un attimo alla moglie. Tu parli poco con tua moglie, Giacomo? Certo, poco. Ma tipo le cose... L'essenziale. L'essenziale, tipo che... Sto uscendo. Sto rientrando. Vado a fare questa cosa, sono con un amico. Va bene, Giacomo, senti, posso chiederti una cosa? Noi possiamo tenere il tuo numero e ogni tanto io ti chiamo, così per, sì, semplicemente prego, per sentirti? Tu lo puoi fare quando vuoi. Giacomo, guarda... Perché poi io ti ascolto anche la notte. Ascolto anche Cruciani, che lui è nato il 15 di settembre. Davvero? Io invece il 16, ecco perché mi è rimasto impresso Cruciani. Quindi tu ascolti Cruciani non perché ti piace, perché è nato un giorno prima di te? No, io, ah, ti è rimasto impresso. Lo ascolto perché mi piace. Certo. In questi tempi c'è il gossip di Berlusconi, non Berlusconi. Beh, Giacomo, per questo Giacomo ti lascio il numero di Cruciani e ne parli dopo. È sempre lo stesso, però tra un paio d'ore. Lo so. Giacomo, io comunque ti richiamo quando voglio di fare quattro chiacchiere con te. Va bene. Io ti auguro una buona serata. Anche a te, Giacomo. Salutami tua moglie. Salutami tua moglie. Dille qualcosa di più a tua moglie, perché guarda che si può sempre recuperare un po' di dialogo. Sì, lo so. Bravo. Qual è il problema? Ciao. Ciao Giacomo, grazie. Non era uno scherzo, Giacomo, vero? Era vero? Benissimo. Andiamo, stiamo a Milano da Roberto. Pronto, Roberto? Eccomi qui, fantastico Giacomo. Sì. Ma mi sa che stanotte mi sognerò anch'io di parlare con mia moglie solo dell'essenziale, perché è un altro bello incubo. Tipo solo quando uscendo. Sono entrato, sono uscito. Esatto. Dimmi i tuoi sogni ricorrenti, Roberto. Io ho due sogni ricorrenti. Uno banale, da genitore separato, però sempre uguale. Cioè mi ricordo, mi sogno di essere sull'aereo che da Londra, non so perché, va a Milano e di ricordarmi di avere dimenticato la mia bambina neonata nella saletta VIP dell'aeroporto. In aeroporto. E mi viene l'angoscia di doverlo dire a mia moglie. Ah, certo. Immagino. L'altro è un po' più complesso, perché io insegno all'università. Sì. Mi sogno di uscire dalla lezione, di trovare un ufficiale giudiziario che mi notifica il fatto che il mio esame di terza media non era valido, per motivi... Per motivi burocratici, però, non perché. Quindi non ha a che fare con la tua competenza. No, ha a che fare però il problema è che, essendo decaduto l'esame di terza media, decade anche la mia maturità, decadono le mie due lauree. E decade il tuo lavoro, la tua professione, la tua vita. Ma soprattutto gli studenti laureati con me non sono più laureati. E il sogno finisce con queste, oramai saranno 10.000 in tutti questi anni, che mi fanno causa per danni. Roberto, che cosa insegni all'università? Insegno web design e social media. Perfetto, quindi ci sono già un sacco di disoccupati in giro a causa del fatto che... Dove insegni? Insegno al NABA, la nuova accademia di Milano, l'università americana a Milano. Chiaro, Roberto, grazie mille, buona giornata. Buona giornata. Ciao, alla prossima. Ciao. Non ce l'abbiamo ancora, Giacomo, no, l'abbiamo messo giù, vero? Fa niente. Vi leggo un altro così, avevo solo voglia già di risentirlo. Chiara, io sogno spesso di avere relazioni con tennisti famosi, in particolare con Nadal. Andiamo invece da Eleonora in provincia di Chieti. Pronto Eleonora? Pronto, buonasera. Ciao, buongiorno, come stai? Tutto bene, io vi ascolto tutti i pomeriggi perché sono nel mio laboratorio di pittura. Sei pittrice? Dipingo, sono qui immersa nei miei colori, allora... Ma sei pittrice, Eleonora? Sentirvi. Eleonora, sei proprio una pittrice? Sono una pittrice, ho anche pubblicato un libro di poesie, ho insegnato. Sei un artista multitasking, oserei dire. Sì. Però anche tu hai dei sogni ricorrenti. Allora, il mio sogno ricorrente è che io vivevo a Torino appena sposata, difatti vengo da Torino, e a mio marito descrivevo sempre una casa su una collina con un albero d'ulivo a fianco, una scalinata, insomma una casa indipendente con il mare. Cioè proprio un posto da favola. Sì. E questo sogno ricorreva, magari passavano 6 mesi, un anno, e gli dicevo sempre a mio marito, guarda che ho continuato a sognare questa casa, ma la vedevo anche dentro. Cioè avevi proprio idea di come fosse? Sì, sì, avevo proprio perfettamente le camere, la disposizione della cucina. E ha un happy ending questo sogno? Come? Ha un finale positivo questo sogno? Difatti, adesso le racconto. Mio marito ha avuto un avanzamento di carriera ed è stato abbiamo scelto di venire qui in Abruzzo e lasciare Torino e venire qua. Soltanto che avevano dato delle case a... Eleonora, io devo chiederti di andare un pochettino più al punto perché mi mancano 30 secondi per chiudere. Niente, abbiamo scelto noi non di andare in città perché abitiamo vicino a Lanciano, ma di scegliere una casa fuori, in campagna. E come ci siamo trovati con questi amici che ci hanno portati in questo posto, io e mio marito ci siamo guardati, abbiamo visto la pianta dell'ulivo, salito le scale, esattamente come l'avevo sognata per anni. Quindi tu vivi nella casa dei tuoi sogni? No, perché poi quella casa abbiamo comprato. L'abbiamo presa in affitto per quel periodo. Va bene. E non ce l'hanno però venduta. Però una cosa positiva. Però ci sei è stata. Che... Devo chiudere, Leonora. Guarda, dimmi la cosa positiva. No, dimmi la cosa positiva. La cosa positiva è che noi eravamo 5 anni, che eravamo sposati e non avevamo figli. E in quella casa sono nate poi le mie due bambine. Eleonora, grazie mille. In bocca al lupo per tutto. Ciao, alla prossima. Non riesco a sentire Giovanni da Bergamo, purtroppo. Un ultimo messaggio a proposito di scuola. Sogno spesso di dover rifare l'ultimo anno di liceo. Stanotte in particolare dovevo prepararmi per un tema di letteratura e non riuscivo a studiare. Grazie a tutti, grazie a Paolino Corleoni, a Tiziano Bonini e a Vittoria Mussini. L'ultimo messaggio di oggi, Antonella. Sogno ricorrente di avere una relazione con Fini, particolari scabrosi compresi, e mentre sogno penso di doverlo dire a mio nonno, che era un partigiano. Più che un sogno, è un vero incubo. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete? I sogni sembrano reali finché ci siamo dentro. Solo quando ci svegliamo ci rendiamo conto che c'era qualcosa di strano.